24 mattino. Eccoci alle 8 e 16 minuti, ben ritrovati con 24 mattino. È il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Con Deborah Rosciani, ben ritrovata. E con chi altro se no? A volte ci sono stati altri. È vero, anche dalla parte tua però della scrivania. È vero. Benissimo, allora oggi parliamo di treni, sì, Deborah, esatto. Di treni e di biglietti dei treni. Esatto, tu viaggi spesso in treno, Alessandro? No. Poco, quelle poche volte che lo fai, acquisti il biglietto su internet, sì, vai alle agenzie di viaggio, in stazione, su internet. Ma faccio tutto online, esatto. Io con un computer. E quindi tu il problema di questa mattina non te lo poni, perché che però, cosa succede? Però ascolto. Molto bene, e da oggi in poi non andrei più in un'agenzia di viaggio, no, naturalmente no. Anche la loro attività a volte è assolutamente insostituibile, molto importante, soprattutto magari in quei centri piccoli, in quei piccoli paesi in cui per fare un biglietto del treno è, come dire, è inevitabile rivolgerci ad un'agenzia, perché magari la stazione non è vicina, perché non abbiamo magari la possibilità di utilizzare internet. Ci sono tanti motivi. Allora, qual è il problema? Il problema è quello che è capitato ad una persona che si chiama Mario, e la sua vicenda l'ha raccontata sul Messaggero un collega, un collaboratore appunto del Quotidiano di Roma, Michele Di Branco. Michele, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, raccontaci un po' questo caso, in realtà è quello sicuramente un po' più eclatante, ma non tanto in realtà rispetto a quello che ha pagato questa persona per prenotare un viaggio per andare a raggiungere la figlia a Trento. Che cosa ha scoperto quando è andato a pagare il biglietto, Michele? Ho scoperto che c'era una commissione di 10 euro per i biglietti con di importo superiore ai 100 euro di spesa. Lui ha acquistato un biglietto di andata e ritorno per Trento presso un'agenzia di viaggi zona Appia a Roma, e quando è andato a pagare si è accorto che l'importo era di 117 euro complessivo per un viaggio di andata e ritorno, c'erano 10 euro di commissione. E quindi un 8,5% di ricarico, come dire. Mm-hmm. E ha segnato questa cosa al giornale, e che mi ha incaricato di svolgere una piccola indagine. Sono andato in giro per Roma ed effettivamente ho trovato un po' di tutto. Ovviamente, come dire, non ho trovato casi di quel genere. Intanto ho verificato che la cosa fosse vera recandomi lì in incognito, e lo era. Quindi che ti sei fatto fare, come dire, un preventivo per fare un viaggio e hai scoperto quanto avresti dovuto pagare, sì. Esatto, mi sono finto cliente, non ho acquistato il biglietto ovviamente, perché non dovevo andare a Trento. Poi, e quindi ho verificato che la cosa fosse vera, e lo era. E poi ho fatto un'indagine per vedere se la cosa era in qualche modo era un caso isolato. Era isolato dal punto di vista, almeno per la mia esperienza, dal punto di vista della robustezza, tra virgolette, della commissione chiesta. Però in altre agenzie succede di tutto, nel senso, certo, che effettivamente vengono applicate delle commissioni le più disparate. C'è chi applica, di solito funziona, la regola generale, tra virgolette, anche se di regole non ce ne sono, è che vengono applicate delle commissioni crescenti a crescere con l'importo. Questa è, diciamo, la regola generale. E c'è addirittura, io ho scritto un caso divertente, come dire, che di qualcuno che applica addirittura la commissione di un euro per la sola per il suo disturbo di chiedere un'informazione sui viaggi, sugli orari dei treni. Quantomeno però che si debba pagare poi questa commissione si sa, perché almeno questa agenzia è corretta e lo fa sapere direttamente all'ingresso, appunto, sì, del cliente in agenzia. Succede, devo non dire sempre. La verità, di solito viene indicato, questo è quello che hai rilevato prima, tu. E quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. E allora, perché è possibile che succeda tutto questo? Perché per la verità a me è capitato un caso di altra natura, io non l'ho segnalato alle associazioni dei consumatori, sempre per andare a Trento, come se questa fosse la destinazione più problematica d'Italia, ma dovevo raggiungere questa città da Milano. Su un biglietto che mi ha fatto la segretaria di redazione, la mia collega Manuela, appunto, di 30 euro, io ne ho pagate 10 lo stesso, appunto, sempre perché ci siamo rivolti ad un'agenzia, e allora anche lì un pochino il malumore si è sollevato. Andrea Giannetti, presidente di Assotravel, l'Associazione Nazionale delle Agenzie di Viaggio e Turismo aderenti a Confindustria, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, ci può spiegare come mai avviene tutto questo? È chiaro che per l'utilizzo di un'agenzia è giusto che il loro lavoro venga remunerato, ci sembra però che in certi casi queste commissioni corrispondano quasi a dei veri e propri balzelli. Ci diceva Michele, la situazione è molto eterogenea sul territorio, non capita ovunque così, questo però è l'effetto di una liberalizzazione che non è ben riuscita, Giannetti, ci sembra. Dire una cosa innanzitutto, l'unico costo trasparente che vi è nell'acquisto di un titolo di viaggio, qualsiasi esso sia, e non fanno eccezione le Ferrovie dello Stato, l'unico costo trasparente è il costo dell'agente di viaggio. Detto questo, è per il passeggero, per il consumatore, perché è esposto chiaramente ai banchi di qualsiasi azienda, in particolar modo delle mie rappresentate. Il tema è che però non esiste una percentuale nel senso uniforme dappertutto, perché a volte si ha la sensazione che un po' le agenzie possano fare quello che vogliono, una nostra impressione, una nostra forzatura, Giannetti. No, assolutamente, la vostra forzatura, il prezzo è il costo quando c'è, ed è raro perché sono eccezioni, solitamente non viene applicata nessuna fee, nessun sovrapprezzo nella media delle agenzie italiane, ecco perché magari si osserva il fatto che qualcuno lo applichi. In realtà, ripeto, è chiaramente esposto ai banchi di un'agenzia ed è l'unico costo che qualsiasi passeggero può avere in piena trasparenza di quando acquista un qualsiasi titolo di viaggio, sia esso un biglietto ferroviario, aereo o qualsiasi altra. Quindi qual è la percentuale che dobbiamo pagare? È una percentuale, come dire, che è graduata rispetto al costo complessivo? Non esiste. C'è una regola, perché sarebbe contrario anche alle regole dell'antitrust. Ognuno applica a seconda della propria azienda e lo espone fuori. Ripeto, nella media nazionale chi applica una transaction fee è chiaramente un numero limitato, si parla di poche centinaia di agenzie su 4.500 che distribuiscono biglietteria ferroviaria. È evidente che il livello di servizio poi fa la differenza. Che il cliente scelga di farlo o meno in quell'agenzia, però ripeto, la stragrande maggioranza non applicano ancora niente sulla biglietteria ferroviaria. Ecco, però da quello che mi risulta, con Trenitalia le principali associazioni di viaggio, la vostra, Fiavet e Assoviaggi, sta tentando di andare ad un accordo per appunto la questione delle provvigioni, perché mi risulta che sono andate via via riducendosi, almeno quelle che vi vengono corrisposte da Trenitalia. In realtà questa questione di questo accordo è abbastanza nebulosa, perché si leggeva su qualche giornale che c'era stata questa firma, in realtà c'è stata solo, come dire, una firma di un verbale di incontro, questo è quanto. Giannetti, adesso la situazione qual è? Quindi Trenitalia che cosa vi ha chiesto? In Italia ha in maniera unilaterale abbassato il regime economico sulla transazione, cioè ha abbassato la provvigione in pratica, portandola a un livello che è assolutamente insostenibile. Cioè si parla dell'1-2% sulla biglietteria emessa, su ogni biglietto emesso, per cui è una cifra che non recupera neppure non solo il tempo dell'operatore, ma neppure la corrente. Però volevo osservare che su questo caso, laddove non si applica nessuna transazione, sono la maggioranza delle agenzie, si spende meno che acquistarlo via telefono, per cui ancora ha un suo vantaggio implicito. D'altro parte, non percependo magari che l'1-2% di commissione, in molti casi, specialmente per le agenzie che fanno moltissime missioni o pochissime missioni, il costo dell'operatore è elevato, e allora una transaction fee, solitamente però di €1-1,50 viene richiesta, proprio per compensare e arrivare al pareggio dei costi. Il caso di Roma che ci raccontava Michele Di Branco, dunque, come lo possiamo identificare, Giannetti? È un caso assolutamente eclatante, si vede che quel collega ha sicuramente necessità di recuperare più costi per questo tipo di servizio. In Europa non è eclatante, a Londra è normale spendere £18 per comprare un biglietto di un treno che ne costa 4. Michele Di Branco, volevo tornare un attimo con Michele, perché Giannetti prima diceva sì, vabbè, il riconoscimento di queste fee, però l'importante è che siano chiaramente esposte in agenzia e che l'informazione sia ben chiara ancora prima di iniziare la trattativa per l'acquisto di questo biglietto. Michele, l'agenzia a cui ti sei rivolto tu, questa informazione la sapevi, la conoscevi dall'inizio? Diciamo di sì, nel senso che, oddio, in questo caso c'è stato un po' di... Io l'ho detto chiaramente anche ieri, anche prima, scusa, che generalmente per la mia esperienza la cosa viene detta, anche se magari con cartelli, diciamo così, imboscati, oppure con un'informazione che viene data a metà del dialogo con l'operatore. Non è tanto questo, io concordo con Giannetti, nel senso che non c'è, e l'ho anche scritto, cioè non c'è niente di irregolare in questa situazione, cioè è la classica situazione in cui hanno tutti ragione però qualcosa non va, nel senso che, come correttamente appunto ha detto Janet, il rinnovo dell'accordo gli ha ridotto le provvigioni e in qualche modo le agenzie devono recuperare questi margini che sono persi. Si certo. Tratta comunque di un lavoro che viene svolto. Ieri la Cinzerenzi di Fiavet mi diceva che sotto il 4% di provvigioni garantite da Trenitalia per loro non c'è ricavo, quindi da questo punto di vista è ovvio che è chiaro che il lavoro deve essere in qualche modo, deve avere una remunerazione. No? Insomma, allora il suggerimento è attrezziamoci con internet, perché ci pare di capire che l'acquisto online è quello. Michele, dobbiamo salutarci. Io devo dare quest'ultimo suggerimento, appunto, ovviamente ai nostri consumatori, che se non avessero alternativa ad internet o l'acquisto diretto alle biglietterie delle ferrovie, devono sapere che comunque questa commissione va pagata in una percentuale o in un'altra. Grazie a Michele Di Branco e ad Andrea Giannetti, magari ci ritorniamo presto su questo argomento. Alessandro, eccoci qua. Allora parliamo di bambini oggi, asili nido, le Tag Mutter, cosa saranno mai, insomma, questi asili di condominio che stanno nascendo nel nostro paese, e spiegheremo come si fa a crearli. C'è studiare tedesco per seguire Salvadanaio. No, bambini e asili, insomma, conosco a malapena l'inglese, figuriamoci col tedesco. Ben ritrovati alle 8.33 minuti, diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Si apre oggi il G8 all'Aquila, il dossier Iran, la crisi economica, il clima, gli aiuti ai paesi poveri, questi i principali temi in agenda. Non parteciperà al G8 il presidente cinese Hu Jintao, rientrato a Pechino in nottata per la crisi nella regione dello Xinjiang, dove continuano le proteste della minoranza uigura. Dopo essere stato immortalato mentre cantava cori da stadio contro i napoletani, il deputato della Lega Matteo Salvini si è dimesso dalla Camera. I cori non c'entrano nulla, dice lui, semplicemente ho optato per il Parlamento europeo. Salvini però ha chiesto scusa e promette ora da Strasburgo lavorerò anche per Napoli e i napoletani. Un risparmio che può arrivare a 380 euro, l'effetto di un bonus sul gas in arrivo da novembre, ne beneficeranno 3 milioni di famiglie bisognose che potranno contare su un risparmio medio in bolletta del 15%. Lo sconto sarà rivolto alle famiglie con l'indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie con 4 o più figli a carico. E infine folla di fan ieri a Los Angeles per l'addio a Michael Jackson, mentre i funerali si sono svolti in forma privata. Intanto l'attore e amico della star Lou Ferrigno rivela aveva accumulato 400 milioni di debiti, era distrutto dallo stress. Tutto questo alle 8.34 minuti. Il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. Come abbiamo sentito, si apre il G8 oggi all'Aquila. I giornali non parlano praticamente d'altro. È motivo per fare anche una chiacchierata con l'ambasciatore editorialista del Corriere della Sera, Sergio Romano. Romano, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato. Senta, dovremmo subito parlare di questa vicenda del Guardian, il quotidiano britannico che ha detto l'Italia ha organizzato in maniera disastrosa questo vertice, fortunatamente hanno preso in mano tutto gli Stati Uniti, tra poco l'Italia probabilmente con pressioni dei paesi uscirà dal G8 a favore della Spagna, e Berlusconi ha detto una gran cantonata di un piccolo giornale. Ecco, lo ricorderemo più per quello che avverrà sui temi internazionali o per le polemiche questo G8? Ma non credo che lo ricorderemo per le cose compiute, per i fatti importanti, per le decisioni rilevanti, significative. Ho l'impressione che il G8 sia un formato molto datato e non ricordo negli ultimi anni un G8 che abbia prodotto qualche cosa di veramente significativo. Tenga presente tra l'altro che il G8 non si occuperà mai di una questione che può essere imbarazzante per uno dei suoi membri, soprattutto se è un membro importante. La più importante questione degli anni tra il 2003, il 2007, 2008 è stata la guerra irachena, e della guerra irachena il G8 non ha mai parlato perché avrebbe imbarazzato gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, questa è la realtà. Avrebbe potuto recuperare autorità nel momento in cui la grande crisi finanziaria ci ha colpiti tutti, ma in realtà è proprio quello il momento in cui ci siamo accorti che il G8 era inadatto ad affrontare quei problemi, perché non aveva fra i suoi membri i paesi che maggiormente possono darci una mano in questo momento per il loro tasso di sviluppo, per la loro politica finanziaria, India, Cina, Brasile, Sudafrica. eccetera. Quindi stiamo parlando di una grande photo opportunity, come la chiamano gli americani, di una gigantesca photo opportunity, a cui i membri fanno fatica a rinunciare perché anche gli enti inutili trovano i loro difensori. Cossiga oggi al Riformista in un'intervista cita il De Profundis del G8. Il G8 è finito, non interessa nessuno, dice Cossiga. Il mio motto inventato per il G8 vale. Quale motto? Chiede l'intervistatore. Dura poco e passa presto. Questo è il motto che ha inventato Cossiga. Senta, ma allora queste polemiche, perché... si vive questo G8 anche dal punto di vista, lei ne ha scritto proprio oggi l'editoriale sul Corriere della Sera, anche dal punto di vista politico in Italia, come dire, o la riscossa del governo se passa questo G8 o la scossa, tanto per usare un termine caro a qualcun altro. Sì, e devo dire che a questo punto un po' di patriottismo forse non guasterebbe. Mi rendo conto che le battaglie politiche si devono sempre continuare a fare, sono il sale della democrazia, ci mancherebbe altro. Ma ci sono circostanze in cui, come dire, si passa un esame e la giuria non è italiana, la giuria in questo caso è proprio internazionale e per di più può anche essere viziata da qualche suo pregiudizio, pregiudizio di carattere etico, diciamo così, o addirittura interessi diversi dai nostri. Vede, per esempio, questa faccenda del Guardian è abbastanza interessante. Ho l'impressione che la stampa europea, la stampa britannica in particolare, perché è la stampa delle missioni, delle crociate, è curioso un paese così distaccato, così fine, così ironico, ha bisogno in qualche modo di costruirsi ogni tanto delle battaglie da fare. Si ricorderà quando l'Economist a un certo punto ingiunse a Clinton di dimettersi su tutta la sua copertina per l'affare Monica Lewinsky, poi Clinton non si dimise e fece anche bene. Tutto sommato, perché sarebbe stato assurdo creare un precedente di quel genere, ma questo è nello stile dell'Economist, giornale di grandissima intelligenza, ma ripeto, bisognoso di questo tipo di sfide per poter continuare a fare circolare il suo sangue, diciamo così. Poi quindi... tra l'altro anche il sangue della carta stampata in questo momento circola male. E quindi qualche campagna. Quindi c'è qualche... più una campagna quella del Guardian, una campagna a dire adesso bisogna andare in quella direzione. Insomma. Credo di sì, non è soltanto del Guardian, intendiamoci, i giornali europei che sono più critici, più duramente critici nei confronti di Berlusconi, oggi sono credo almeno tre, il Guardian, il Times, il País, con il Financial Times che bene o male adotta una linea forse più comprensibile, più moderata, ma insomma Berlusconi sta diventando quello che è stato per un certo periodo Haider e per un altro periodo Le Pen. In altre parole è l'uomo nero dell'Europa, fa parte dei giochi dell'informazione, ripeto, soprattutto nel mondo britannico, perché paradossalmente questo non accade negli stessi termini nel giornalismo americano, soprattutto nel giornalismo di alto livello. Vabbè, insomma, passerà. Se vuole che lo dica. Senta, Romano, siccome ci ha raggiunto anche un altro ospite che tra poco saluto, la vicenda della Cina. Allora, a mio modo di vedere è passata un po' in secondo piano, ma insomma, il presidente cinese Hu Jintao è rientrato a Pechino. Le ha fatto piacere, non le ha fatto dispiacere, non l'ha colpita più di tanta quell'accoglienza in pompa magna? Solo il presidente Napolitano gli ha detto, beh, insomma, però i diritti umani in Cina magari diamogli un'occhiatina, no? Ma devo dire che tutto si può e tutto si deve dire ai capi degli stati stranieri, soprattutto perché la nostra opinione pubblica lo desidera, perché è sensibile a quei problemi, perché nessun uomo politico europeo in questo momento potrebbe rinunciare a questo tipo di tematica. Poi naturalmente i politici però debbono anche, quando sono responsabili, quando hanno un compito da svolgere, intendo, non semplicemente quando chiacchierano, debbono anche chiedersi, ma sarà utile quello che sto dicendo a questo paese? Gli servirà qualche cosa e servirà veramente a risolvere un problema? La Cina ha 1.300.000.000 di persone da governare e se per caso... il paese gli si sgretola sotto perché non riesce più a controllarlo, perché le aree periferiche vengono spinte fenomeni secessionisti. Questo del Xinjiang è anche, del Xinjiang è anche un esempio interessante. Beh, che cosa facciamo? Ci sostituiamo noi a loro nel governo di 1.300.000.000 di persone? Se sappiamo noi come si fa a governare 1.300.000.000 di persone secondo i criteri perfetti dei diritti umani che noi abbiamo elaborato in 2-3 secoli e molto spesso trascurato? No, certo, però il tema c'è. Io a questo proposito vorrei salutare anche padre Bernardo Cervellera. Buongiorno Cervellera. Buongiorno agli ascoltatori. È il direttore di Asia News, che è molto seguita, un'agenzia del PIME online, asianews.it, molto attenta a quello che succede in Cina. Voglio dire, per esempio, a Venezia, quando è arrivato ieri Hu Jintao, che lo ricordo nella notte è tornato a Pechino, non seguirà dunque il G8 per seguire quello che succede in Xinjiang, hanno in una visita ufficiale del presidente Hu Jintao hanno oscurato la bandiera di Taiwan. E qualcuno ha detto, ma non l'avevano neanche chiesto i cinesi, cioè c'è questa corsa quasi a essere più realisti del re, quasi a fare di tutto per non creare nessun tipo di imbarazzo con la Cina. Lei la coglie? Pose la domanda? Sì, no, a padre Cervellera. Io trovo che tutto un po' la comunità internazionale è sempre più realista del re, e insomma anche in Italia 2 miliardi di dollari di contratti fanno molto comodo in un periodo come questo di crisi. Teniamo conto che la Cina in fondo è quella che sta superando un po' meglio la crisi economica internazionale, quindi tutti vanno a battere cassa, vanno a chiedere aiuti eccetera eccetera, e per questo tutti la trattano come effettivamente un'imperatrice, l'imperatrice della comunità mondiale. Il problema secondo me è che la comunità internazionale, soprattutto quella del business, non riesce a capire che il problema dei diritti umani è proprio un problema economico, e che la fragilità della Cina sta proprio nel fatto che non si rispettano i diritti umani. Proprio l'emarginazione dei musulmani uiguri, proprio l'emarginazione dei tibetani crea le rivolte. Proprio le differenze e gli abissi che ci sono ormai tra la ricchezza e la povertà all'interno della Cina e il crollo dell'ideologia comunista, che non esiste più ormai da decenni, cioè sta creando una situazione che è veramente come una polveriera. Allora, sottolineare i diritti umani, sottolineare il rispetto della dignità dell'uomo, sottolineare la giustizia, minore corruzione, cioè è un aiuto alla Cina, un aiuto proprio a migliorare anche la sua situazione economica. Cioè, di fatto è il fallimento in realtà di questa idea che molti businessmen hanno, che insomma più si fa commercio con la Cina e più i diritti umani miglioreranno. Su questo, Sergio Romano, per concludere, insomma, in realtà era più, hanno arrotolato uno striscione addirittura che pubblicizzava una mostra d'arte di Taiwan, cioè voglio dire, niente di male. Insomma, chi l'ha fatto, cosa ha fatto? Ha fatto un gesto così? Sergio Romano. Ma io parecchie decine di anni fa ero a Londra ed era una partita di calcio Italia-Inghilterra. E le partite di calcio Italia-Inghilterra sono sempre state molto delicate perché si finisce per litigare in campo, ma insomma alla fine, quando la partita si è conclusa, hanno suonato gli inni nazionali e per l'Italia hanno suonato la marcia reale. Beh, la cosa ci ha seccato. Abbastanza. Che dobbiamo trarre da questa? Che naturalmente quando viene il presidente di uno Stato, il quale ritiene, a torto o a ragione, che la Taiwan sia una provincia dello Stato cinese, e a questo punto pare che siano pochissimi quelli che glielo contestano, nemmeno la Santa Sede contesta questa pretesa, questa affermazione della Repubblica Cinese, e beh, quando avviene in visita quel capo di Stato non gli si sbandiera in faccia il drappo dei colori di una provincia secessionista. Va bene, io mi fermo qui ringraziando sia Sergio Romano sia padre Bernardo Cervellera, direttore di Asia News. Asianews.it, ripeto, è molto, molto attenta, sempre molto attenta anche come informazione a quello che avviene nel mondo dell'est, del sud-est del mondo. Grazie, si apre oggi il G8, vedremo se le polemiche supereranno invece il dibattito. 8 e 49 minuti. Poi uno dice bisogna fare la riforma delle pensioni. Sentite quello che accade in Sicilia, dove nel 2003 la giunta, l'assemblea regionale approvò una legge che veniva fatta per equiparare il sistema pensionistico dell'amministrazione della Sicilia al sistema, alla normativa di tutti gli altri enti pubblici del paese. Però ci fu messo un cavillo, una norma, come sempre è nei cavilli che si nascondono le cose più simpatiche. Si decise di garantire a qualsiasi dipendente della regione che avesse un genitore o un coniuge o un figlio affetto da una malattia di particolare gravità la possibilità di congedarsi con 25 anni di contributi per gli uomini, 20 per le donne con figli. Quindi non so, uno inizia a lavorare a 20 anni, a 45 anni può andare in pensione. Io voglio salutare Tommaso Alfredo Liotta, buongiorno. Buongiorno. Lei è stato il dirigente generale del Dipartimento del Personale della Regione Sicilia. Sì, senta, per 8 anni. Ma quanti hanno usufruito di questa baby pensionamento? 700-800. Sì. Cos'è un baby pensionamento? Ma le dico, per alcuni versi sì, però è bene inquadrare questa norma con che ha dato questo vantaggio con una precedente disposizione di riassetto della burocrazia che aveva previsto la possibilità di uscire per ben 4.500 dipendenti perché c'era un eccesso di dipendenti. Ecco, nel 2003 fu abolita quella norma che era stata fatta dal governo di centrosinistra del 2000 e fu mantenuto questo vantaggio solo per appunto i portatori di familiari con grossi handicap. Però si ricorda, mi scusi Liotta, si ricorda un caso, forse lei ce lo potrà dire, cioè insomma bastava avere un anziano genitore in condizioni cattive di salute e si può andare in pensione. E chi non ce l'aveva, so che se l'ha anche procurato, cioè appunto, ci fu una Come si è fatta adottare? In che senso? Si è fatta adottare da una vecchietta novantenne, una zia, non so che cos'era, perché evidentemente non rientrava nella casistica prevista dalla norma, si è fatta adottare così come figlia, quindi parente di secondo grado, ma ce ne sono tante situazioni anomale. Io ricordo che diciamo era necessario che il parente fosse in vita, perché l'obiettivo era quello di poter accudire al parente. Sì. Certe volte prima di andare in pensione magari sto vecchietto moriva, venivano magari da me e io così esprimevo dispiacere per la dipartita, ma loro erano dispiaciuti perché avevano perduto l'occasione della pensione. E baby pensionamento. Ma qui c'è un caso di una donna, una ragazza che è andata a che cosa? In un ospizio, cioè a farsi adottare da una persona che non c'entrava niente come legame di parentela. Era un'ipotesi quella, la preoccupazione mia è che si andasse ad adozione. Si è fatta adottare da una terza persona, non solo se è andato in ospizio. La mia preoccupazione è che introducendo il principio dell'adozione evidentemente potesse degenerare la gestione di questa norma. Cioè c'è stato un caso? Non c'è stato. Fortunatamente c'è stato. Si è fatta lottare per raggiungere questo scopo, non per altro. Solo quel caso c'è stato, un caso sì, solo. Sì, un caso e poi diciamo la corsa, quando si aggravava il parente, il familiare, la corsa ad andare in pensione perché evidentemente sennò si perdeva il beneficio. Senta, lei che ne pensa? Voglio dire, perché poi appunto si parla di innalzare il limite della pensione, e che dobbiamo pensare che in questo caso la Sicilia è un'isola felice, almeno per i dipendenti della regione? Dirlo, capisci che è una valutazione questa tutta particolare. Pare che qualche cosa del genere si voglia fare anche in campo nazionale, in questo senso, anche però è un pur parler, niente di più. Certo, è stata una norma di favore, però inserita in un contesto che prevedeva l'alleggerimento della struttura burocratica regionale è estremamente numerosa. Ma mi scusi, Liotta, io posso ma io posso capire anche che poi se uno ha veramente un parente anziano e malato posso anche discutere sulla bontà della norma, che lei mi testimonia insomma che insomma fatta la legge si è trovato da una parte l'inganno, un caso che si è fatto no, ma le dico Le dico di più, perché magari dopo un mese una persona a 45-50 anni va in pensione, dopo un mese viene il caro estinto E che succede? Ma quella resta in pensione. Perché questa appunto, questo infatti glielo stavo chiedendo, mica è revocabile la baby pensione? Assolutamente no. Uno va in pensione a 45 anni, dopo un mese purtroppo muore il genitore e rimane in pensione a 45. Certo. Non è revocabile appunto provvedimento. E si va in pensione con quanto? Credo il 75% dell'ultimo stipendio percepito. Con sì, 75% dell'ultimo stipendio. Ma sì. Consistente. Ma nessuno dice niente. In verità, frutto di un sistema pensionistico che estremamente favorevole per i dipendenti regionali, ma la stessa norma ha abrogato questo sistema pensionistico dal punto di vista della retribuzione favorevole e ora è assolutamente omogeneo con quello statale. Praticamente, per concludere, tra l'altro, visto che il ministro Brunetta era intervenuto proprio su questa cosa, accudire un parente, insomma, le regioni autonome, come al solito, si fanno un po' le autonomie, sono autonome, lei dice, si fanno le autonomie loro. Ma non la vedrei in termini così. Ripeto, è stata una via uno strumento per alleggerire una struttura estremamente pesante. Probabilmente è questo il vero problema. Una struttura pesante. Questo sicuramente sì. Purtroppo qualcuno ne ha approfittato. Però io insomma la ringrazio per questa testimonianza, Tommaso Alfredo Liotta. Staremo a vedere, perché pare insomma ha fatto anche scalpore, per cui l'attuale segretario generale dell'amministrazione appunto della Sicilia, Repubblica ha scritto andrebbe in pensione a 47 anni, lui ha smentito, no, non lo faccio, però insomma i baby pensionati in Sicilia, interessante come questione per averla posta. Grazie, magari ci torneremo. Ci fermiamo qui, 9 in punto, Oscar Giannino, e noi ci sentiamo domani.